Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Vi stavo aspettando prima di andare a sentire i temi di oggi. Un saluto a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi in redazione. Andiamo. Anca, dalla displasia alla protesi. SOS Pidocchi. Giorgione, una ventata di aria fresca. Oggi parliamo di anca e lo facciamo con due specialisti per avere modo di darvi un quadro completo dei problemi congeniti, infiammatori, traumatici o da usura che possono interessare questa articolazione nel corso degli anni. Inizieremo ad occuparci di una patologia che interessa i neonati, di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, la displasia dell'anca, che è una patologia evolutiva di cui non sono ancora note tutte le cause, ma di cui si conoscono gli effetti nel tempo. Ma naturalmente il nostro viaggio nell'età dell'anca, chiamiamolo così, farà tappa sull'artrosi, che ha un debole per questa articolazione, ahimè. Ma oggi non ci limiteremo ad affrontare questi due grandi capitoli, perché obiettivo della puntata è da un lato capire come preservare la salute di questa articolazione che forse, senza rendercene conto, costringiamo ad un super lavoro e che stressiamo un po'. Oggi infatti è una buona occasione per conoscere le opzioni terapeutiche e chirurgiche a disposizione per riparare eventuali danni e quindi restituire alla nostra anca funzione, mobilità, assenza di dolore, in una parola, benessere. Voglio subito presentarvi i nostri ospiti di oggi che sono qui in studio con me, il professor Nicola Portinaro. Professore, buongiorno. Buongiorno. Direttore della clinica ortopedica all'Università degli Studi di Milano e responsabile dell'unità operativa di ortopedia pediatrica all'Istituto Humanitas di Rozzano. E tra l'altro questo è anche il tema, l'anca, dello Specialista Risponde, per cui avete tempo fino alla fine del mese di inoltrare le vostre mail, le vostre richieste ad Humanitas e l'equipe del professor Portinaro sarà pronta a rispondervi. Ma qua in studio con me, dopo, dato che i bambini li affidano al professor Portinaro, ci ha raggiunto anche il dottor Damiano Ricci, che è ortopedico sempre all'Humanitas ed esperto in chirurgia dell'anca, a cui affideremo le nostre anche, le anche degli adulti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Professor Portinaro, allora iniziamo con i nostri bambini, che sappiamo entro il terzo mese vengono ormai di routine sottoposti ad uno screening ecografico per la displasia dell'anca, che direi ha proprio l'obiettivo di valutare lo sviluppo e la conformazione dell'articolazione. Questo esame, lo sappiamo, genera in molti genitori un po' di apprensione, ma in questo caso meglio conoscere per tempo che arrivare tardi, perché la tempestività della diagnosi cambia radicalmente l'iter di questa patologia. La comunità scientifica è d'accordo? Diciamo che questo esame è un esame che si esegue da vari anni, da circa il 1980, per cui 80-85, chi è nato prima non ha fatto fuori questo esame, per cui problemi alle anche gli verranno da adulto se non gli sono già avvenuti. Diciamo che la comunità scientifica, però non è detto, giusto? Non è detto, meno male, non a tutti. Mi sentivo già anzi le auguro che lei stia benissimo come tutti gli altri, però può succedere che un'anca che adesso viene vista come immatura o che non è cresciuta bene durante lo sviluppo fetale possa venire trattata in maniera non cruenta, quindi non chirurgica, e essere restituita ad integrum, cioè diventare un'anca praticamente normale, se vista molto precocemente. Trattamento e risultati sono tanto più corto il trattamento e tanto migliori i risultati quanto più precoce è la diagnosi. Certo. La ecografia rispetto alla radiografia tradizionale, che valutava solo i casi dove c'era una clinica evidente, cioè dove c'erano delle alterazioni quando si visitava il neonato, mentre spesso nella displasia queste alterazioni non si vedono. Allora l'ecografia permette una diagnosi precoce senza rischi, perché non ha radiazioni, senza dolore, e questa diagnosi precoce permette un trattamento che è generalmente molto semplice, molto sopportato molto bene dai neonati, sopportato bene dai genitori, per cui grosse controindicazioni non ce ne sono. Dottor Ricci, il professor Portinaro ha detto che questa ecografia è stata applicata per i bambini che sono nati dagli anni 80 in poi, ma noi che siamo nati prima non abbiamo fatto questo questo esame e quindi la nostra anca potrebbe riservarci delle sorprese. Io non so se lei si ricorda quella trasmissione di grande successo, Non è mai troppo tardi, se le ricorda, in cui il maestro Manzi invitava gli italiani sui banchi di scuola e insegnava loro l'italiano, dava insomma una seconda chance. Questo è possibile anche per chi ha delle patologie dell'anca che per mancanza di esami non sono stati diagnosticati per tempo, o chi tardi arriva male alloggia? Diciamo una via di mezzo. In realtà, se la patologia è non diagnosticata, è abbastanza grave, diventa difficile poter fare, diciamo, qualcosa di conservativo. Se invece sono delle forme lievi, come è possibile nel ventaglio delle manifestazioni della displasia, è attualmente possibile cercare un po' di ripristinare chirurgicamente, ovviamente, una morfologia idonea, ideale, per far funzionare questa articolazione, sempre che la cartilagine, diciamo così, cioè la struttura, sia ancora integra, perché altrimenti perdiamo questa possibilità. Dottor Ricci, però noi abbiamo intitolato la nostra puntata dalla displasia alla protesi. Naturalmente obiettivo di questa puntata, come abbiamo detto in apertura, e questo, di questo mi rivolgo a Sandro, parleremo anche molto di prevenzione. Sandro ci scrive subito: perché non parlate anche di prevenzione? L'abbiamo detto subito, noi vogliamo capire come evitare di stressare la nostra articolazione, quindi anche Sandro sarà accontentato. Ma dicevo, protesi, ma non sempre si ricorre alla protesi, si parla sempre di più di chirurgia conservativa. La parola ci piace perché l'idea di conservare ci sembra qualche cosa di meno invasivo e più rispettoso della natura. Per tutti, in quali casi è giusto sperarci? Sicuramente sì, ovviamente, come dicevo prima, non in tutti i casi più gravi diventa difficile, diciamo, poter salvare l'articolazione. Cioè, conservativa vuol dire comunque ripristinare con le strutture del soggetto. La chirurgia protesica è una chirurgia sostitutiva, insomma, certo, non siamo più in grado di poter far nulla per questa, quindi la cambiamo con quello che abbiamo a disposizione. Con un pezzo di ricambio. Ovviamente, perché non è possibile. Sono comunque sempre interventi chirurgici di un certo peso, anche se ultimamente si sta sviluppando, per sempre casi selezionati, la possibilità di eseguire questi interventi in artroscopia. 824 0024, questo è il nostro numero verde a vostra disposizione. I messaggi, come sempre, 349 238 6666, ma allora chiedo ai miei ospiti di farci capire, farci sapere di che quali informazioni hanno bisogno per poterci dare una mano. Professor Portinaro, quindi lei si rivolge essenzialmente ai genitori di bambini piccolissimi, neonati, ma anche fino ai bambini che sono diventati un pochino più grandicelli, diciamo fino agli adolescenti. Ecco, questo è il suo campo d'azione. Che cosa ha bisogno di sapere? Quali informazioni? Generalmente non si può prescindere da una valutazione anamnestica, quindi da una storia clinica che il genitore racconta, specialmente nel neonato o nel piccolo. Nei più grandi poi diventa il paziente capace di raccontare la storia. Non si può prescindere da una valutazione clinica, per cui bisogna stare attenti a essere troppo tecnofili prima di valutare il paziente. Dopodiché ci sono degli esami specifici a seconda del sospetto di patologia che uno può avere, cioè che il medico può avere. Ovviamente il neonato non parla, la mamma lo conosce poco, per cui l'ecografia delle anche è l'esame d'elite per la displasia. Quindi più le mamme in ascolto possono già darle questa informazione, se hanno fatto questa ecografia e che cosa è venuto fuori, esattamente, ad esempio. Esattamente, che cosa è venuto fuori, ma tendenzialmente se ci sono stati dei problemi, le mamme sono le prime a saperle e tendenzialmente si rivolgono poi allo specialista, che è l'ortopedico che si occupa di queste cose. Anche segnali un po' di disagio di bambini un pochino più grandi che accusano dolore? O... Chiaramente la zoppia che c'è nell'adulto, ma che manifesta chiaramente con o dolore in un punto, nel bambino si manifesta solo come una difficoltà di camminare. Allora ci sono varie patologie dell'anca, di cui parleremo, del bambino, certo, di cui parleremo, che hanno dei segni specifici, per cui... Quindi state pronti a dirci se avete il vostro bambino è stato sottoposto a questa ecografia, o se notate che quando cresce ha delle difficoltà, del dolore, anche difficoltà ad appoggiare il piede? La zoppia è una difficoltà ad appoggiare il piede, oppure un arto inferiore che è atteggiato o tutto girato in dentro, tutto girato in fuori, uso termini semplici così ci capiamo, oppure un bambino che non riesce addirittura ad appoggiare l'arto e lo mantiene piegato. Dottor Ricci, invece, per noi è molto più semplice. Ai nostri ascoltatori chiediamo di segnalarci eventuali disturbi che sono legati al dolore, immagino, alla rigidità. Sì. E anche il professor Portinaro citava la zoppia, anche presente nell'adulto. Sì, diciamo che normalmente nell'adulto, a meno che non abbia avuto una forma displasica importante in cui la rigidità, cioè la limitazione funzionale che un po' ha sempre avuto, la fa da padrone, in realtà è il dolore, cioè comincia a comparire questo dolore o in regione inguinale o sul trocantere, cioè sulla parte esterna, che comincia ad allarmare il paziente proprio perché magari non passa subito, non risponde ai farmaci e alle volte quindi è necessario fare una valutazione un po' più approfondita per capire il problema reale. Molto dipende dallo stile di vita, dall'attività lavorativa del soggetto, dallo sport che pratica. 800 24 00 24, non allarmatevi, ma chiamateci. Una mela al giorno. Piccoli, che dico microscopici, ostinati e fastidiosi. Oggi, cari amici, dedichiamo lo spazio della mela al giorno parlando di pidocchi. Parassiti, pensate, che ci frequentano dalla notte dei tempi perché sono citati nella Bibbia e addirittura nei papiri egizi. Parassiti millenari, verrebbe da dire, che come sappiamo mostrano una particolare predilezione per i capelli dei nostri bambini. Il problema è che sembra sia sempre più difficile convincerli ad andarsene. Il grave è che spesso, ahimè, ritornano. Sembra infatti che negli anni abbiano sviluppato una resistenza particolare. Quindi se vostro figlio ha i pidocchi o se solo temete che possa ospitarli, restate perché oggi scopriremo insieme come liberarcene, naturalmente nel modo migliore. E in linea con noi abbiamo il professor Stefano Veraldi, che è professore associato presso la Clinica Dermatologica dell'Università di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, evitare i pidocchi è impossibile, questo lo sappiamo, i bambini socializzano. I pidocchi, direi, vanno a nozze. Il contagio è facile, inevitabile. La parola prevenzione qui forse non funziona, o sbaglio? Ha ragione. Prevenire questa infestazione è praticamente impossibile. Una cosa che possiamo fare è una diagnosi precoce o precocissima. Non possiamo impedire che i bambini, appunto, come diceva lei giustamente, socializzino, giocano, hanno contatti continuativi, ripetuti, e quindi questa è la causa principale della facilità del contagio. Senta, professore, però se è vero che prenderli è facile, è eliminarli abbastanza difficile, anche perché sembra che siano diventati più resistenti, o è solo un'impressione di noi mamme? È vero, ci sono dei sospetti circa la comparsa di specie mutanti, quindi specie più resistenti alle terapie tradizionali, sì. E in particolari focolai nel mondo, come per esempio in Australia, a Miami, a Parigi, a Bristol. Da questi focolai è possibile che queste, fra virgolette, nuove specie di pidocchi si siano diffuse soprattutto nel mondo occidentale industrializzato. Professore, quindi lei ha detto se è impossibile evitare il contagio bisogna accorgersi precocemente che sulla testa del nostro bambino ci sono i pidocchi. Ci sono delle zone da guardare con attenzione? Sì, le zone più colpite, intanto il cuoio capelluto. Sì? Le zone più colpite sono le aree sopra le orecchie, sì? Dietro le orecchie e la nuca. I vecchi dermatologi, soprattutto francesi, dicevano che queste sono le zone più ricche di capelli, quindi più buie, e il pidocchio vivrebbe meglio appunto in aree più buie. Certo, un po' coperto, gli piace l'oscurità e il caldo. Allora, adesso andiamo ai trattamenti. Ci sono shampoo, gel, polveri, mousse. Direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma se lei ci dà una mano, ci dà una dritta, forse abbiamo più probabilità di fare centro. Sì. Allora, innanzitutto... Centrare un pidocchio è difficile. I trattamenti a nostra disposizione sono molto efficaci. Spesso non sono attuati in modo corretto. Allora, prima battuta, polveri no. Polverino. Perché è difficile l'applicazione, non si ha un contatto uniforme con i capelli, e c'è un rischio di inspirazione. Sì. Shampoo no, perché il contatto è troppo breve, Sì. Perché di fatto non esistono shampoo con principi attivi pediculocidi. Sì. E oltretutto i, fra virgolette, principi attivi che contengono gli shampoo sono inevitabilmente e completamente diluiti dall'acqua, perché gli shampoo sono idrosolubili. Certo. Inoltre, quando il pidocchio è immerso in acqua, la capacità di penetrazione del principio attivo è sensibilmente ridotta, quindi shampoo no. No. E le tre formulazioni migliori sono creme, lozioni e schiume. In particolare, un paio d'anni fa è stata commercializzata in Italia una schiuma a base di piretrine, sì, che direi che è efficace. Forse il prodotto più utilizzato, in quanto probabilmente il più efficace. Professore, il trattamento, un trattamento d'urto e poi a distanza di tempo si riprova? Sì, il trattamento dura uno o due giorni, sì. L'applicazione per esempio di questa schiuma per 6 ore in genere è sufficiente, sì. Bisogna ripetere il trattamento dopo 7-10 giorni perché con la seconda fase della terapia si attaccano le lendini, cioè le uova, sì, del pidocchio, che tendono a schiudersi. Quindi una prima fase per l'adulto, una seconda fase per le uova. Senta, professore, a proposito di adulti e di familiari, io invito le mamme, quando trovano i pidocchi ai loro bambini, di segnalarlo all'insegnante, cosa che invece molti stendono, insomma, fanno finta di nulla, per cui penso che questa sia un'indicazione, professore, da dare a tutti noi. Non c'è niente di male, certo, ad avere un bambino con i pidocchi. Se li hai presi, ci sono, ce li avevano le mummie, ce li portiamo dietro da millenni. La seconda cosa da fare, in casa, un'indicazione per i fratelli, magari più grandi, familiari, cosa si deve fare? Trattamenti a tutti oppure no, dato no, che la prevenzione non serve? La prevenzione non serve, guardare il cuoio capelluto dei bambini con costanza, con regolarità, se possibile tenere i capelli corti, perché con i capelli corti è più facile vedere eventuali adulti e soprattutto le uova. Professor Baraldi, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno, grazie. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci della nostra anca, di quella nostra e di quella dei nostri bambini, anche piccolissimi. Abbiamo infatti due esperti, il professor Portinaro si occuperà dei piccoli, mentre il dottor Ricci si occuperà di noi adulti. Abbiamo in linea con noi Stefano, che ci chiama da Frosinone. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo porre una questione ai, sì, professori. Io sono stato operato a 14 anni all'anca per uno scivolamento a seguito di un incidente e mi misero due viti. Sì. E ora ne ho 36 e a me questi viti non danno fastidio, non ho mai fatto controlli anche per la ragione, per questa ragione, insomma, sì, che non mi danno fastidio. Volevo sapere se necessitavano di un qualcosa, di essere tolte oppure di un intervento. A me non fanno male. Non gli fanno male, quindi faccio anche sport, gioco a pallone, ovviamente non eccedendo, però insomma comunque sto bene. Sta bene, meno male. Stefano, professor Portinaro, Stefano. Beh, sta intanto bene. Intanto è una fortuna avere un paziente che sta bene, che non è un paziente. Bene. Quindi Stefano, complimenti. Non ci sono indicazioni assolute. Generalmente i controlli a distanza vanno fatti, non è non è specificato nei trattamenti di queste patologie che i chiodi vadano tolti o non tolti. Vanno tolti se danno fastidio, sicuramente, vanno tolti se ci sono delle complicanze. Il consiglio che posso dare è che sicuramente un controllo radiografico lo farei, non per problemi particolari, ma per non avere delle sorprese in futuro. Voilà, noi siamo tornati, oggi parliamo di anca, devo dire a grande richiesta, perché molte mail ci sono arrivate in questo periodo chiedendoci proprio di occuparci di questa articolazione che ci può dare tanti problemi, sin da quando siamo nella pancia della mamma. Finalmente però dall'80, come ci diceva il professor Portinaro, c'è questa patologia che possiamo diagnosticare precocemente, la displasia dell'anca. Professor Portinaro, ci sono le cause sono note e non completamente, ci sono dei fattori di rischio, un'ereditarietà, avete capito qualcosa di più? Chi è più predisposto? Allora, sicuramente una grande quantità di casi sono sporadici, quindi non hanno una familiarità, non hanno fattori di rischio, non sappiamo bene come mai avvengono. Sì. Sicuramente la familiarità incide molto, quindi sì, c'è un'ereditarietà di questa sì, patologia. Sicuramente cause meccaniche come poco liquido amniotico e specialmente la posizione del feto nell'utero, quindi la posizione podalica è quella che aumenta il rischio di avere displasia. Senta, professore, è vero più le bambine che i bambini? Più frequentemente nelle bambine che nei bambini, con una differenza moderata, quindi non circa 3 a 2. Federica ci chiama da Bergamo. Buongiorno Federica. Buongiorno. Dunque, come diceva il professore, mia figlia era nata podalica. Sì. E immediatamente mi hanno detto di fare un'ecografia dell'anca. Sì. Effettivamente mi hanno detto che aveva una leggera displasia. E mi hanno consigliato di metterle il doppio pannolone. Il doppio pannolone. Adesso come sta? Tutto a posto? Fai i controlli? Quel termine evolutiva ci invita a controllarla nel tempo. Lei lo sta facendo, Federica? Allora, dico subito che subito dopo il doppio pannolone... Federica, senta, noi iniziamo, la richiamiamo, perché la sua voce va a scatti, ma intanto rubo lo spunto che ci ha dato Federica e ci ha detto all'inizio mi hanno consigliato il doppio pannolone, il che vuol dire che la displasia dell'anca, a seconda delle forme, può essere approcciata in modi diversi. Professor Portinaro, perché si sente pannolone, il divaricatore, l'ingessatura... Certo, certo. Allora, anche nel mondo scientifico si usano tecniche di varicatori diversi. Sicuramente il doppio pannolone favorisce una posizione con le anche piegate e, uso un termine non scientifico, bravo, aperte, quindi abdotte, che è la posizione che fa maturare meglio la testa del femore all'interno della sua cavità, che si chiama acetabolo. Ovviamente il trattamento col doppio pannolone è un trattamento per i casi o di immaturità delle anche, quindi non ancora malate, oppure è un trattamento che si usa nelle displasie molto lievi. Federica, prego. Sì, eccomi. Ecco, buongiorno. No, perché buongiorno. Eccola. Allora, lei ha messo la sua bambina ha messo il doppio pannolone. Com'è andata? Ha messo il doppio pannolone, non è andata a posto. Mi hanno consigliato la mutandina rigida. Ha provato per un po' la mutandina rigida, non è andata a posto. A un certo punto io ho sentito vari ortopedici. Due su tre mi hanno consigliato il divaricatore. Ha messo il divaricatore. Dopodiché ha fatto una radiografia, tra l'altro non l'hanno schermata, e anche qua vabbè, non so che implicazioni possa avere in futuro, e mi hanno detto che era praticamente a posto e gli hanno tolto il divaricatore. Adesso come va? Adesso mia figlia secondo me cammina male, nel senso che comunque tende a mettere un po' all'indentro. I piedi all'indentro. Professor Portinaro, è Federica ci racconta, non dico è possibile, evidentemente sì, tutta questa trafila di tentativi per arrivare al divaricatore, andate brancolato un po' nel buio, è stata fatta una diagnosi un po' all'acqua di rosa, quali indicazioni si sente di dare agli ascoltatori prendendo spunto dall'esperienza Chiaro. Di Federica? Ecco, perché commentare un caso clinico senza avere niente certo, in mano è sempre per complesso. Le dico, prendiamo spunto sicuramente per dare... la diagnosi ecografica di displasia delle anche permette poi un trattamento che adesso è abbastanza codificato. È stato codificato all'inizio degli anni 80 e adesso queste classificazioni servono proprio per non abusare di libero arbitrio, ma ci sono, a seconda della displasia, dei trattamenti che sono codificati per quantità, entità e follow up, cioè controlli a distanza. C'è un'attività sportiva, fisica, particolare per i bambini che hanno avuto una displasia dell'anca corretta? Ma io direi che aiuta? La displasia dell'anca, una volta diagnosticata presto, è una patologia che risolve la situazione. Sì. Per cui poi non c'è un'indicazione, una controindicazione a uno sport. È quando ci sono dei residui certo. di patologia, perché è stata vista tardi, perché non è stata vista, allora lì le indicazioni vengono date a seconda della gravità del quadro clinico radiografico. Professor Portinaro, molti messaggi che scrivono: la mia bambina cammina con i piedi in dentro, è iniziato a camminare, come ci scrive Angela, da poco, da un mese, e cammina sulle punte. È normale, non c'entra l'anca in questo? È sempre molto difficile dare un parere, quelle che io chiamo le diagnosi da corridoio, perché si rischia di sbagliare. Tendenzialmente un bambino normale animale che ha appena cominciato a camminare cammina coi piedi in dentro in punta di piedi. Quindi questo però non posso dallo certo, studio però escludere. Considerando che siamo nel 2010, questi bambini avranno fatto l'ecografia dell'anca, quindi è normale che camminino così. Un ascoltatore mi dice che il figlio, allora Ilaria ci scrive: mio figlio ha sofferto di coccite a 6 anni. Questo SMS mi dà modo di chiederle, quindi ci sono altre patologie dell'anca che possono interessare i bambini? Certo, certo, ci sono una serie di patologie dell'anca che interessano i bambini e che variano a seconda dell'età dei bambini. Come nel neonato c'è la displasia congenita, che si può protrarre anche nell'adulto, nel bambino di 5 anni esiste la coccite, che è un'infiammazione dell'anca transitoria benigna, ci possono essere delle infezioni dell'anca, ci possono essere dei casi di malattie congenite dove la testa del femore soffre, a un certo punto non si sviluppa bene, che si chiama la malattia di Perthes. Andando avanti con l'età, quindi intorno ai 14-15 anni, c'è un'altra malattia, cito le principali, certo, per incidenza, cioè di numeri di casi che avvengono, è l'epifisiolisi, cioè la testa del femore che scivola sul collo, o meglio il collo del femore che scivola sulla testa del femore. Ovviamente tutte queste patologie hanno un quadro clinico simile, che è il dolore all'anca, hanno un atteggiamento obbligato dell'anca, che varia a seconda delle diverse malattie, e tutte queste malattie portavano a doversi rivolgere relativamente presto al dottor Ricci. Attualmente, dottor Ricci, con cui collaboriamo da anni, esiste appunto, come diceva lei, questa chirurgia conservativa, dove si cerca di rendere il più possibile un'anatomia che è stata distorta dalla malattia, renderla il più possibile normale. Questo per prevenire poi una alterazione della meccanica e della funzione che porta all'artrosi, che porta alla protesi. Quindi, dottor Ricci, arrivando a lei, una chirurgia conservativa che deve conservare, quindi non deve arrivare troppo tardi. No, in effetti il problema è proprio questo, perché se la condizione ormai ha portato un danno, ripeto, come detto prima, proprio alla cartilagine, che per noi è il tessuto fondamentale eccessivo, non è più possibile nessun tipo di correzione che abbia un valore. Il discorso può anche essere quello di fare questa chirurgia, alle volte non per evitare la protesi, far vivere sicuramente bene il paziente, ma almeno allontanare della protesi, visto che ormai l'aspettativa di vita sta aumentando di più. Per fortuna, no? Certamente. Ah, Rosanna da Salerno, buongiorno. Buongiorno. A chi l'affido? Al piccolo o ai grandi? Cioè al professor Portinaro o al dottor Ricci? Ah, non lo so, io ho dei problemi, non so che mi descriva rapidamente, se per allora, lei le tocca al dottor Ricci, perché per il dottor me. Bene, per allora, dottor Ricci figli, per lei. Io ho 3 figli e 44 anni. Brava. Da un po' di tempo a questa parte sto soffrendo di più, mal di schiena. E metto dei cerotti come Flectors, sì, per far andare via. Sì, per far andare via il dolore, ma alla fine non è mai andato via completamente. Allora, Rosanna si sta chiedendo quello che ci stiamo chiedendo in molti, dico io e i miei amici da casa. Dottor Ricci, domanda da 1000 punti. Il mal di schiena che molti di noi avvertono, come facciamo a capire che potrebbe essere partire dall'anca? Perché sa, uno lo sente, no? In fondo alla schiena, sente questo dolore, ma lì la zona è tutta vicino. Dottor Ricci, il nostro mal di schiena può essere causato da un problema dell'anca? Noi non ci pensiamo e magari è lei che dopo anni e anni si lamenta perché l'abbiamo stressata, magari non sapevamo che aveva qualche problema, no? No, è vero, è possibile. Ogni articolazione risente, diciamo, delle articolazioni vicine, quella più a valle e quella a monte. Di solito però l'anca si fa sentire, cioè ha proprio dei segni, dei sintomi specifici. È sincera, insomma. È sincera, non tradisce. È difficile proprio avere un'anca asintomatica con un problema grosso, però sicuramente va fatta uno studio, una valutazione anche di tipo posturale. Se l'anca è interessata, evidentemente c'è un problema di postura in questa schiena, in cui l'anca può avere magari anche una responsabilità. Dottor Ricci, ma l'attività sportiva, ci rivolgiamo sempre alle persone della nostra età che non hanno fatto l'eco quando erano neonati, può far scatenare dei problemi? Fa bene o fa male? Il super lavoro, e soprattutto come facciamo a capire che lo sport che stiamo facendo sta logorando la nostra anca? Allora, io direi questo, il problema dello sport è ci sono delle attività ovviamente come tipo di esercizio, ad esempio il nuoto ovviamente è un'attività in scarico, quindi di solito viene indicata, così come non so, il ciclismo. Ci sono attività come la pallavolo, il calcio, che invece sovraccaricano molto l'articolazione, soprattutto però nei soggetti che la praticano ad alto livello. E quindi... io ne ho proprio uno in linea che l'ha praticato, devo dire, ad altissimo livello, uno dei giocatori che ha vinto di più della storia del volley italiano è Andrea Gardini, che è in linea con noi. Andrea, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Domani tra l'altro dedicheremo proprio con il dottor Confalonieri e con il tuo amico Zorzi una puntata dedicata alla pallavolo. Oggi parliamo invece con te dei, tra virgolette, rischi, dei regali che un sport come la pallavolo, giocato ai livelli tuoi e quindi in modo serio da professionista, può portare alle articolazioni. Andrea. Questi saltini. Innanzitutto il dottor Ricci ha fatto un preambolo perfetto per quello che riguarda il nostro sport, la pallavolo in particolare. La pallavolo, come tanti sport, finché giocato a livello pseudo-amatoriale non crea problemi. Se giocato ad altissimo livello e per oltre 20 anni, quello che ho fatto io, per cui fino quasi al 40° anno di età da professionista, estate e inverno continuamente, può creare qualche difficoltà e io ne sono il testimone. Senti, perché la tua anca, perché uno penserebbe al ginocchio, no? Del pallavolista, invece no, si sbaglia, l'anca, dottor Ricci. Quello è un altro genere di problema. Diciamo che l'anca in alcuni casi, evidentemente io ero un po' più sensibile in questa zona del corpo, ho riportato e ho tuttora diversi problemi anche nella vita quotidiana, per così dire. La mia anca non è in ottime condizioni, diciamo che la testa del femore è completamente alterata nella sua forma, ci sono tracce di una frattura da stress dagli esami che sono stati fatti successivamente, dovuti probabilmente al sovraccarico, della quale io però non ho ricordo, se non molto dolore nella mia anca, e un inserimento nella una zona dell'acetabolo completamente rovinata. Insomma, uno dice un'anca da campione, sì. Ma se rinasce la tua anca dirà, ma io invece preferisco andare dalla Nicoletta, così mi lascia un po' tranquillo. Sì, assolutamente sì. Senta, dimmi Andrea, scusami. No, dicevo, questo poi comporta una serie di problemi, come diceva prima il dottor Ricci, che nella vita quotidiana si sentono, perché io dico normalmente quando non sto particolarmente bene, non la sento fluida, io cammino con la schiena, nel senso che la mia anca non mi segue in tutti i movimenti, per cui inevitabilmente poi la schiena ne trae dei danni, perché poi ho problemi, ho difficoltà a entrare in macchina, io oltretutto ho una dimensione anche fuori dalla media, perché sono più di 2 metri, per cui ogni movimento di reclinarsi, di entrare in un'autovettura, di passare in passaggi bassi, per me rappresenta una difficoltà. E poi si dice altezza mezza bellezza, superaltezza però ti dà anche un po' di problemini. Dottor Ricci, tenere fermo Andrea è impossibile, perché immagino che uno che ha praticato sport tutta la vita non è che si mette le pantofoline, no Andrea? No. Qualunque rimane, è nel mio DNA, per cui io ho continuato dopo aver finito l'attività agonistica per un po' di tempo a giocare proprio con l'amico Andrea Zosi, che tu prima ricordavi, insieme in una nazionale veterans che abbiamo fondato. Sì. Per cui gli over 40, per così dire, che giocano ancora in questa nazionale. Sì. Però l'ho potuto fare solo per alcuni anni, perché la mia anca dopo un po' ha detto: ma che sei matto, continui ancora? Nonostante l'attività di prevenzione e tutto il resto. E ora invece continuo con piscina, bicicletta, un po' di attività fisica per mantenere il tono nella parte che riguarda il gluteo, il quadricipite e il bicipite femorale. Questo mi consente di condurre una vita quasi normale e non posso assolutamente proprio fare niente che abbia a che fare con il salto, con lo stacco e soprattutto la ricaduta da terra, perché mi provoca dolori e giornate intere di fastidio. Dottor Ricci, promosso Andrea? Sì, assolutamente, ha proprio azzeccato il problema. probabilmente aveva già qualche difettino, diciamo così, all'anca, che è stato stressato dalla sua intensa e ripetitiva attività fisica. È chiaro che se adesso riduce le richieste funzionali, l'anca è ancora in grado di offrire le sue prestazioni, chiaramente a un livello inferiore, però deve, come sta facendo giustamente, proseguire sempre qualcosa, quindi intendo dire attività ovviamente più leggere, per mantenere la forza muscolare, l'articolarità. È un consiglio che possiamo dare anche a chi non è un atleta come Andrea? Assolutamente, se non siamo più nelle condizioni di poter fare una chirurgia conservativa, purtroppo l'unica soluzione è trovare un compromesso, soprattutto nelle fasi iniziali, questo è possibile, per evitare di dover fare una protesi in tempi anticipati. Andrea, grazie per essere stato con noi. Ma è stato un piacere, ringrazio voi e i consigli del dottor Ricci. Grazie ad Andrea Gardini. E abbiamo Carlo che ci chiama dalla provincia di Torino. Buongiorno Carlo. Buongiorno a lei, dottoressa. Ci racconti, Carlo? Anzitutto un ringraziamento per l'entusiasmo e la cortesia e la disponibilità con cui tratta gli argomenti. Grazie. Una breve domanda per il dottor Ricci. Sì. Io ho 58 anni, sto parecchio seduto per lavoro. Sì. Quando mi alzo provo un dolore lancinante all'anca che sparisce dopo i primi passi di deambulazione. Ecco, volevo chiedere al dottor Ricci cosa mi consiglia. Ecco, bravo che l'ha chiesto a lei, perché anche a me capita. Cos'è? Certo. No, ovviamente io e Carla abbiamo una cosa in comune. È molto probabile che sia un problema all'anca. Ovviamente per valutare l'entità e la natura del problema è bene che faccia perlomeno una radiografia. Dopodiché si può impostare, come dire, un progetto di lavoro, cioè vedere un attimino, come ripetevo prima, lo stile di vita, cosa può fare, cosa non può fare, nel caso in cui effettivamente l'artrosi fosse confermata. Ecco, l'artrosi, quando morde l'anca, che segni dà? Stiamo fermi, quando ci muoviamo iniziamo, esatto, ad avere dolore, diciamo, che scompare un po' con, certamente, un po' di riscaldamento. Di solito all'inizio il dolore, camminando un po', siccome migliora ovviamente la circolazione, la lubrificazione all'interno dell'articolazione nelle fasi iniziali, migliora con un po' di cammino. Chiaramente dopo che uno è stato a lungo seduto o fermo, mettersi in moto è difficoltoso, però anche attività, cioè fare le scale, può cominciare a diventare difficoltoso. In questi casi che cosa facciamo? Una sorta di riabilitazione, oltre a farci dare una controllatina che male non fa, cosa facciamo? Una sorta di riabilitazione che può essere un po' una riabilitazione nello stile di vita quotidiano, quindi muovendoci in modo intelligente, con quale attività, certo, ad esempio, dottor bisogna Ricci? Trovare il giusto compromesso, cioè il non far niente, diciamo così, per risparmiare l'articolazione è totalmente inutile, che anzi ha bisogno di un po' di moto, e evidentemente bisogna evitare l'eccesso, ma anche l'eccesso di peso, quindi vuol dire... Lo sapevo che andava lì, tutti ci fanno dimagrire, ogni specialista, qualunque piccolo problema, giù con il peso, e loro sono sempre magretti. No, però può essere un cofattore importante, sì, ovviamente non in tutti i pazienti, per cui prediligere delle attività, come dicevo prima, se uno vuol fare dello sport, dove non c'è il carico sull'articolazione. Quindi nuoto va bene. Nuoto va benissimo, la bicicletta, lo sci da fondo, insomma evitare le attività più impegnative dove c'è uno sforzo intenso, anche un po' di jogging. Ovviamente non bisogna prepararsi per la maratona in uno che ha un'artrosi, però fare un'attività di corsa leggera nei 20 minuti. Terapie fisiche servono? Assolutamente, questo è tutto. Nella condizione in cui il soggetto non ha ancora un'indicazione chirurgica, la riabilitazione, quindi il fisiatra, il fisioterapista, hanno un largo spazio nel gestire il malato. Chiudiamo con un messaggio che proprio gli ascoltatori da casa si tengono riguardo alla nostra trasmissione di oggi, un messaggio flashissimo da parte del professor Portinaro per i bambini e dal dottor Ricci per gli adulti. Professor Portinaro, dopo questa trasmissione la parola chiave da portarsi a casa qual è? Far controllare con un'ecografia i bambini neonati, qualora il bambino abbia, una volta cresciuto, dei problemi, zoppie, farlo sempre vedere da uno specialista, seguire le patologie del bambino fino ad evoluzione della patologia o quando il bambino è cresciuto, perché adesso ci sono delle possibilità che condividiamo io e il dottor Ricci di sistemare un'anatomia che è stata alterata dalla patologia. Dottor Ricci, evitare il sovrappeso sicuro? Un'attività sportiva moderata fa bene, quindi mi raccomando, muovetevi ma con giudizio. Perfetto. Come direbbe il nostro dottor Confalonieri, che sentiamo domani, sentiremo domani, con gradualità. E con questo io vi saluto, appuntamento come sempre a domani, dopo il GR delle 11, giocheremo a pallavolo. Essere e benessere.